Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. L'alto rappresentante per la politica estera europea Catherine Ashton visiterà l'Ucraina alla fine della prossima settimana. Il capo della diplomazia europea dovrebbe incontrare il presidente Viktor Yanukovych, il leader dell'opposizione e della società civile. L'Ucraina è al centro di una pesante crisi politica da quando Yanukovych ha deciso di non firmare l'accordo d'associazione con l'Unione Europea e di stringere rapporti con Mosca. E martedì prossimo si terrà anche l'incontro fra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli esteri Sergei Lavrov da una parte, i presidenti di Consiglio e Commissione Van Rompuy e Barroso, la responsabile della politica estera Ashton dall'altra. Non sarà un vertice come tutti gli altri, ha detto il portavoce della Commissione europea Olivier Bailly, precisando che il focus sarà su vicinato e quindi l'Ucraina, diritti umani, Siria ed Iran. Dal World Economic Forum di Davos, il primo ministro britannico David Cameron si è detto sicuro di poter negoziare le relazioni con l'Unione Europea per consentire al Regno Unito di rimanere fra i 28. Sono fiducioso che avremo una rinegoziazione di successo e un referendum di successo, ha detto Cameron. Fra Londra e Bruxelles ci sono molte distanze, a partire dall'immigrazione. L'Italia resta indietro sul fronte della ricerca scientifica, commenta così Monica Frassoni, presidente del Partito Verde Europeo, la denuncia da parte della Commissione Europea all'Italia per la mancata attuazione dell'Italia della direttiva sulla sperimentazione scientifica sugli animali. La sanzione sarebbe di oltre 150.000 euro al giorno. Sentiamo Monica Frassoni al microfono di Cristina Carpinelli. La ragione per la quale l'Italia è in ritardo è che come in altri paesi, ma forse peggio che in altri paesi, ci sono degli interessi economici, ma anche una situazione dell'opinione pubblica che ritengono che non si possa fare a meno della sperimentazione animale e quindi sostanzialmente resistono e hanno un impatto su poi che cosa fa il governo. E poiché nel momento in cui si approva una direttiva europea c'è sempre un margine di discrezionalità nel modo in cui questa normativa viene approvata, è chiaro che si apre una battaglia nell'applicazione di queste norme. Peraltro, se uno poi scorre la proposta che viene fatta dal governo rispetto all'applicazione di questa direttiva, vediamo molto chiaramente che rispetto alle intenzioni del legislatore europeo si svuota molta della sostanza, insomma. E quindi in particolare per esempio per gli incentivi alla ricerca di metodi alternativi, che era il cuore della direttiva dell'Unione Europea, l'Italia rimane veramente molto molto al di qua di quello che si potrebbe fare e credo che da questo punto di vista questo sia un gravissimo errore. Ed ora parliamo di videogame. Per la Corte di Giustizia Europea si può eludere il sistema di protezione di una console. Il Tribunale di Milano si era rivolto per un parere alla Corte Europea dopo aver esaminato la causa che vede contrapposta Nintendo e la toscana PC Box, ora Recovery BIOS, un'azienda specializzata nella modifica di console da videogioco, accusata di eludere le misure tecnologiche di protezione dei giochi. Per capire il nodo della questione, va detto che nelle console da gioco della Nintendo, come in quelle di altri produttori, c'è un sistema di protezione che impedisce l'uso di copie illegali di videogiochi, ma che di fatto impedisce anche l'uso di contenuti multimediali non approvati da Nintendo, seppur legali. PC Box, che commercializza console Nintendo modificate, ritiene che i blocchi servano a Nintendo non solo per impedire l'uso dei giochi illegali, ma anche per evitare di fare girare sulla console software indipendenti acquistati illegalmente. La Corte di Giustizia Europea ritiene che la protezione giuridica del copyright debba rispettare il principio di proporzionalità. I giudici del Lussemburgo dicono quindi che i sistemi di protezione dovrebbero limitarsi a proteggere dall'uso di giochi illegali, ma permettere la fruizione di altri software legali e indipendenti. Ora il Tribunale di Milano dovrà prendere una decisione sulla base di questo parere. Dovrà dunque verificare se le console modificate servano prevalentemente per usare giochi piratati o effettivamente per usare software indipendenti ma legali. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole 24 Ore. È tutto, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.